e parte ufficialmente un'altra nostra intervista per Please Don't Stop the Music. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. Stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus in seguito all'aumento negli ultimi giorni dei casi positivi. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Un reddito di continuità che possa, tra un contratto e l'altro, dare uno strumento di reddito ai cittadini, professionisti e professioniste dello spettacolo. La musica dal vivo ai tempi della pandemia. E io non posso non trasmettere questa bellissima sigla che il nostro direttore ha fatto per la nostra rubrica inchiesta Please Don't Stop the Music. Oggi avremo in collegamento telefonico con noi Crotty B, che è uno dei nomi con cui lo chiamano i suoi amici di infanzia. Da sempre ha avuto dei soprannomi perché nel quartiere in cui è cresciuto è sempre stato quello che si atteggiava da rapper, dal modo di vestirsi al modo di parlare, al suo modo di fare un po' burbero e fuori dalle righe. Crotty B è l'alter ego musicale di Christian Cavalli, che nasce a Milano, città in cui trascorre l'infanzia con i nonni. Abbiamo parlato anche tanto di nonni prima, quindi è un bellissimo ritorno ai nonni. Crescendo dimostra subito un'attitudine verso la scrittura, una piuma tatuata sul braccio che racchiude gli anni di adolescenza trascorsi nella solitudine dell'introversione. Quel suo primo tatuaggio lo fece a 13 anni e sta a significare che ogni parola ha un peso, così come nell'antichità gli egizi pesavano l'anima con una piuma, oltre ad essere il calamaio da cui nell'antichità gli egizi pesavano l'anima con una piuma e da cui attinge ogni volta che scrive. Una piuma che gli metterà le ali? Cresciuto tra varie difficoltà in famiglia, la separazione dei genitori, la lontananza da sua sorella, il continuo via vai negli ospedali. Insomma, è bello secondo me anche conoscere un po' il background di una persona per capire perché scrive determinate cose appunto con la sua penna. Crotty B cerca ogni giorno di solidificarsi più come rapper che come persona, avendo più carisma su una base che nella realtà. Nel 2020 l'artista ha l'intuizione di inviare un suo brano all'etichetta romana Noise Symphony tramite la piattaforma In Diffusione. La piattaforma è nata per sostenere e promuovere la musica emergente italiana ideata dal musicista e produttore Francesco Tosoni. Inizia subito una collaborazione che lo porta alla realizzazione di Clairville, il primo singolo di Crotty B, disponibile dal 27 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del singolo di debutto dell'MC milanese Crotty B e il brano Clairville è ispirato al mondo di Diabolik che il rapper usava divorare già da piccolo. E allora diamo il benvenuto a Christian Cavalli, ovvero Crotty B. Ciao! Abbiamo fatto una lunga presentazione, ammetto, però la sigla ti è piaciuta? Sì, assolutamente, poi devo dire che nessuno ha mai parlato così tanto e così bene di me poi davanti a così tante persone, guarda. Che carino. Come stai? Allora, questa domanda, non partiamo bene con questa domanda, no, diciamo che oggi è un po' una giornata impegnativa perché non ho dormito tanto bene questa notte, oggi c'è anche l'interrogazione di economia, quindi sono un pochino sulle spine. Ma a che ora hai l'interrogazione di economia? Stasera. Come stasera? Si organizzano, si vede appunto a turni, immagino, no? Sì, più o meno, non ho capito neanche io, in realtà non sono proprio uno studente modello. E infatti sei qui per parlare di lavoro, diciamo così, perché tu sei un artista emergente, ma insomma chi avrà modo di ascoltarti tra pochissimo capirà che sicuramente hai talento. Ma volevamo chiederti, siccome abbiamo avviato questa inchiesta Please Don't Stop the Music dedicata alla situazione attuale dei lavoratori dello spettacolo, come la stai vivendo tu da artista musicale, come hai affrontato anche la pandemia e appunto se la musica ti è servita in questo periodo? Ma allora assolutamente la musica è per me essenziale, perché poi dopo se ne possono dire, ma stare in casa tanto, alla fine le cose diventano sempre le stesse, quelle che si possono fare, no? Quindi si attua una solita routine e per me la musica è diventata una routine che comunque mi fa mantenere la calma e mi rilassa, diciamo, mi aiuta nei momenti di debolezza e mi dà forza, perché comunque riuscire a esprimere quello che penso su carta a volte è molto più bello che dirlo a parole, è un'emozione particolare. Comunque io questa pandemia l'ho trascorsa assolutamente a casa, perché è quello che dovremmo fare tutti, a differenza di alcune persone, però non voglio far critiche, perché poi c'è la gente che mette anche le storie su Instagram, che vabbè, e niente, giusto, giusto, facciamo i messaggi, beh, giusto mandare effettivamente quello che cerchiamo di fare anche noi quotidianamente, insomma, chi siamo in studio distanziati, mascherina, siamo circondati da gel igienizzanti, quindi sono messaggi giusti, in realtà non è far polemica, ma è giusto ricordare che è giusto stare a casa. Esatto, e io principalmente diciamo che trovo l'ispirazione la notte, quando mi viene voglia di scrivere, di solito sono le 2 di notte e poi dopo ovviamente devo registrare, quindi i miei vicini mi odiano tantissimo. però devo dire che rispetto a molte altre persone io me la sto vivendo abbastanza bene, perché la musica è appunto qualcosa che mi rilassa, qualcosa che mi fa passare il tempo, che mi fa stare bene, e quindi devo dire che assolutamente sono molto fortunato sotto questo punto di vista. E come mai hai deciso di chiamarti Crotty B? Abbiamo letto prima che è come ti chiamano i tuoi amici. Allora, i miei amici inizialmente, da Christian a Cri, è diventato un attimo, no? Perché è il diminutivo. Poi sono diventato Cry, perché io sono anche un tipo un po' triste, no? Cry, piangere in inglese. Poi sono diventato Crotty, non so come, però sono diventato Crotty e altri mille nomi, però questo è quello con cui mi chiamano più frequentemente. E devo dire che mi è piaciuto e quindi sono diventato Crotty B. Perfetto, quindi diventa il tuo alter ego musicale. A proposito di questo, da pochissimo, venerdì scorso è uscito il tuo singolo di debutto. Come è nato, cosa rappresenta per te aver finalmente, deduco, pubblicato il tuo primo singolo di debutto, e cosa ci dobbiamo aspettare da questo brano? Allora, è nato dalla mia volontà un po' di tornare bambino, no? Che leggeva Diabolik, che era così appassionato nella lettura di quelle cose là, perché poi dopo soltanto Diabolik mi piaceva leggere, perché poi dopo, quando ero piccolo, devo dire che i libri che mi davano da leggere a scuola non ne leggevo neanche uno, li odiavo tutti, però se mi davo Diabolik in 10 minuti era finito. E quindi un po' questa cosa qua mi ha fatto un giorno, anzi una notte, mi ricordo, stavo pensando, avevo un po' di idee per un singolo e ho detto, però Clairvy, mi risuonava questo nome un po' in testa, no? E quindi ho provato a mettere un po' su carta quello che pensavo, e poi con Noise Symphony abbiamo creato qualcosa di, secondo me, carino. E cioè, io non mi esprimo, non do un parere sulla mia musica, perché non voglio fare né vanagloria né voglio quindi mi sembra giusto che poi dopo siano gli altri a dover esprimere magari un parere sulla mia musica. E niente, qual era l'altra domanda che no, però in realtà volevo aggiungere questa cosa, che ho il testo sotto mano ed effettivamente sono molto belli i giochi di parola, ad esempio lo dico claro, lo dico clean, sono un ladro di parole, sono diabolico, diabolico, infatti vivo a Clairville, quindi ci sono molti giochi di parole che a me piacciono molto. Questa commissione anche con l'inglese è molto bella, molto giovane, fresh. Possiamo lanciare l'hashtag fresh. Noi ti ringraziamo e ti facciamo anche l'in bocca al lupo per l'interrogazione di economia, ma soprattutto per la tua carriera, e speriamo che questo singolo ti possa lanciare molto lontano. Vi ringrazio, grazie mille. E troverai, lo diciamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, lo diciamo anche a te, che come tutte le nostre interviste poi diventeranno un podcast sul nostro sito www.radiocittafucico.it, ma soprattutto anche per portare avanti la nostra rubrica Please Don't Stop the Music, e quindi oggi abbiamo deciso di dar voce a te, che sei un artista emergente, che fino a pochissimi giorni fa, tra l'altro, eri in zona rossa, ora forse anche in Lombardia le cose stanno cambiando. Sì, adesso Orange is the new red. Esatto, insomma, speriamo che tutto possa andare per il meglio, ma la cosa che secondo noi è importante è che la musica continui a suonare, che voi continuate a produrre musica, a scrivere e avere l'ispirazione anche di notte, la capisco molto bene. Va bene, grazie. Grazie a te, ciao, e noi ciao. Ora ci ascoltiamo Crotty B. Grazie. Taglio i fili con ciao. Il mondo, perché giocano tutti al telefono senza fili. Che parte la parola amore, arriva la parola odio. Smetto di essere easy quando c'è feeling, così vedo come improvvisi. Nel mio EP parlo di quello che sono, mica di quello che voglio. Mi pare elementare, altrimenti scriverei la letterina a Babbo Natale. Taglio i legami che mi legano le mani, perché se progetti hai bisogno di piani. Quando scrivo ti rubo le parole di bocca, le tiro fuori come la spada dalla roccia. Lo dico claro, lo dico clean, sono un ladro di parole, sono diabolico, sono come Diabolik, infatti vivo a Clairvy, coltello in mano mi taglio la lingua, così che il mio genio si assopisca. Passa montagne e faccia perché non voglio che mi saluti. Tu la mascherina perché sei brutto per coprirti dagli sputi. Bevo un bicchiere di gin, vivo come fosse Claire Dean. Lo dico chiaro, lo dico clean, sono il ladro di Clairville. Bevo un bicchiere di gin, vivo come fosse Claire Dean. Claro, lo dico clean, sono il ladro di Clairville. Ora che conosci la mia identità, ti devo fare il mio identikit. Ora che parlo con la musica non ho età, sono intramontabile Chuck Norris. Ma dire la verità, non dormo le notti per trovare i modi di essere quello di tutti i giorni. Senza problemi, quello che scrive poemi e che credono che rubi, che sia rude, ma sono un semplice pelato come Rudy. A volte preferirei non essere nato, contraccettivi e meno alcol, avrei però graziato. Ho fatto tribulare i miei dal primo giorno, arrivato all'ultimo ve lo racconto. Aspettate il prossimo album o la fine del mondo. Lo dico claro, lo dico clean, sono il ladro di parole. Sono diabolico, sono diabolico, infatti vivo a Clairville. Bevo un bicchiere di gin, vivo come fosse Clairville. Lo dico claro, lo dico clean, sono il ladro di Clairville. Bevo un bicchiere di gin, vivo come fosse Clairville. Lo dico claro, lo dico clean, sono il ladro di Clairville. Lo dico claro, lo dico clean, sono il ladro di Clairville. Per un bicchiere di gin, vivo come fosse Clairville.